Ciao Radio, vorrei provare a raccontare un po' la storia, quello che sta succedendo a Shanghai e in realtà condividere un po' di fatti, diciamo, quello che è successo soprattutto tra sabato e domenica e lunedì sera, che è stata un po' la fase di cui immagino tutti sappiate. Perché ho visto tante cose girare sui social media e tanti articoli di giornale, e poi invece quello che sta succedendo in questi giorni. E niente, per quanto riguarda Shanghai, sabato sera, più o meno dopo l'ora di cena, è iniziato un capannello di persone che hanno portato ad un angolo della strada, di questa strada che si chiama appunto Urumqi. Tutte le strade di Shanghai hanno dei nomi dei luoghi, quindi sono questa strada che si chiama come la città dove giovedì scorso c'è stato un incidente, un incendio, l'incendio di un palazzo in cui famiglie erano chiuse per dei lockdown di Covid e sono morte 10 persone perché non sono riuscite a scappare durante l'incendio. Quindi sabato sera in questo capannello c'era un pezzo di cartone con su scritto il nome della città e la data, e una scatola di fiori bianchi e una scatola di candele, e persone che arrivavano, che venivano e andavano accendendo queste candele e mettendole attorno a questo cartello. Io sono arrivata abbastanza presto, c'erano una ventina di persone all'incirca verso le 10, 10 e mezza di sera. Si trattava di un morning molto tradizionale, con tutti in silenzio, alcune persone che piangevano, insomma, un pubblico abbastanza variegato, con molte persone anche del quartiere. E la situazione è rimasta tale, crescendo di numeri per un paio d'ore. A un certo punto, più o meno verso le 11, 11 e mezza, alcune forze dell'ordine per come le vedo io, sono quello che potrebbe essere un vigile urbano, si sono avvicinate chiedendo alle persone di non occupare la strada e quindi non impedire il traffico. In realtà il traffico non era assolutamente impedito, però c'erano delle persone che stavano magari con un passo giù dal marciapiede, che tra l'altro è una cosa che si fa, non è che le strade cinesi sono normalmente ordinate, ma comunque con la scusa di mandare via le persone dal traffico, dicevano che dovevamo andare via perché stavamo ostruendo, e quindi le persone hanno cominciato a sedersi e a sedersi anche retro di questo gruppo di candele. Questa cosa è andata avanti per un po', insomma, chiaramente c'erano sempre più vigili e sempre più forze dell'ordine che in qualche modo si stavano avvicinando, e la pressione intorno al gruppo con l'idea di andarsene è continuata fino a che, più o meno, da quello che mi ricordo io, verso mezzanotte e mezza, in realtà la strada è stata chiusa. A quel momento penso che ci fossero comunque il gruppo fosse arrivato intorno alle 150-200 persone. Ora non riesco a ricordarmi esattamente come e quando, ma il gruppo che stava alle candele cercava di rispondere alla polizia, che veniva a dirci che disturbavamo l'ordine pubblico e disturbavamo la gente che dormiva, che in realtà noi, essendo lì in silenzio, c'era poco da disturbare. Comunque la situazione è escalata fino a che la strada è stata chiusa, nel senso che il traffico è stato bloccato e la quantità di poliziotti a quel punto non erano più solo i vigili urbani, ma anche poliziotti normali, era chiaramente aumentata, e più gente stava arrivando, con anche più gente magari più lontana dalle candele e magari più in situazioni di quello che potrebbe essere un sit-in di piazza, in cui alcune persone davano sfogo vocale all'idea che le politiche del Covid sono eccessive, se non insensate, che il governo dovrebbe fare pubbliche scuse rispetto all'incidente che è successo a Urumqi, e invece fa finta che non esista, cancellando le notizie dai vari social, e soprattutto fino al punto di addirittura richiedere una destituzione del presidente, quindi c'era, diciamo, delle voci nel coro abbastanza variegate. La cosa è degenerata fino al punto che è diventata un po', non si può dire una guerriglia di piazza, nel senso che non ci sono state delle forme di riot nel modo in cui le intendiamo noi, con degli scontri in quel momento, ma sicuramente con delle pressioni molto molto molto forti e con una strategia della polizia di accerchiare il gruppo e di separare il gruppo. A un certo punto la polizia ha chiuso la strada con una transenne, con un cordone, e le persone hanno cominciato a fare un altro capannello, quindi c'erano le persone al capannello delle luci, delle candele, e c'è stato un altro capannello che si è formato al di fuori del cordone in cui nuove persone sono arrivate. Questo intorno all'una di notte, stiamo parlando di, secondo me, 500-600 persone. Insomma, comunque la strada era relativamente piena e bloccata da entrambi i lati. E quindi c'è stata questa situazione di maretta, con diversi interventi di spintonamento da parte della polizia, con l'intenzione di mantenere da una parte le persone al bordo all'ingresso della strada separate, dall'altra accerchiare lo spazio originale dove c'erano le candele e i fiori. E una volta che è stato accerchiato, tutte queste persone sono state mandate via dall'altro lato della strada, quindi i due gruppi sono stati in qualche modo isolati. Il gruppo al lato della strada era sicuramente quello più rumoroso, ed è stato anche quello che ha subito sicuramente le pressioni più impegnative, anche se ad un certo punto, quando entrambi siamo stati allontanati, la situazione era quella chiaramente di mandarci via a qualunque costo, quindi le persone si aggregavano agli angoli delle strade o sui marciapiedi, e la polizia arrivava degli squadroni, dei gruppi, dei due o tre file o delle testuggini a mandare via le persone. Non c'erano armi, non c'erano manganelli o armi coinvolti, ma c'era sicuramente un atteggiamento estremamente non piacevole, e nel frattempo persone che alzavano la voce o facevano partire degli slogan o cantavano delle canzoni venivano immediatamente prelevate e trascinate per terra in direzione delle camionette e in qualche modo malmenate lì in diretta. Questa è una situazione assolutamente nuova. Tra l'altro ci tengo a precisare che una canzone come per esempio l'Internazionale è stata considerata illegale in Cina, paradossalmente, perché è stata una delle canzoni che vengono cantate dai cittadini in qualche modo, se posso dire, in difesa del comunismo. E contro invece questa dinamica di azione del partito, il che è ridicolo, ma è così. E quello che è successo, insomma, noi siamo andati avanti fino alle più o meno alle 4, io sono andata via più o meno alle 4 del mattino, in cui la situazione era con 400 persone, beh, poliziotti schierati. La mattina dopo la città si è svegliata con tutte le strade, tutte le vie intorno a quella zona lì completamente bloccate, ma nonostante tutto le persone si sono ritrovate sin dal pomeriggio all'angolo della strada della sera prima, e dalle 3 del pomeriggio fino alle 9:10 di sera c'è stato un severo spintonamento, un severo arrivare della gente, con conseguente crescente resistenza da parte della polizia, che mandava via le persone sempre più in vie sempre più laterali, con numeri sempre più forti. La cosa interessante è che io ho messo dei video su Twitter in cui si vede chiaramente che ci sono decine di blindati, che ci sono arrivate centinaia di forze dell'ordine, tra l'altro in generale persone giovanissime o comunque a quanto pare reclutate in maniera abbastanza estemporanea. Quindi la tattica è chiaramente stata quella di superare nei numeri le persone che fossero in piazza e in qualche modo disintegrarle, cioè mandarle proprio completamente via dalla piazza, con l'utilizzo di mezzi di pressione e, quando fosse necessario, anche di violenza. Io ho visto solo una mezza carica, o comunque, diciamo, una corsa che si è verificata ad un certo punto, però l'idea è stata proprio quella di disperdere qualunque dinamica di aggregazione in piazza. So che il terzo giorno, lunedì sera, c'è stato un tentativo di ritrovarsi in un altro posto della città, perché tutta la zona del centro legata alla strada di Urumqi è in realtà completamente trassennata in questo modo, con transenne con barriere alte 2 metri, quelle di plastica piene d'acqua, quindi il marciapiede è completamente separato dalla strada per un raggio di 1 km². E la cosa interessante è che da lunedì a questa parte le persone vengono fermate per strada o agli ingressi della metro nelle vicinanze e vengono, vengono controllati i telefoni. Quindi c'è chiaramente un interesse della polizia nel trovare le persone che stanno diffondendo le informazioni. Io sono stata fermata domenica notte verso l'una quando tornavo verso casa e mi sono fermata a fare un giro per vedere se stava ancora succedendo qualcosa. Ed stavano già mettendo sulle barriere e sono stata fermata con un tono estremamente intimidatorio perché stavo facendo una fotografia e sono riuscita in qualche modo a mostrargli che la cancellavo dal telefono e me ne sono andata, ma il giorno dopo a quanto pare le persone di tutti i tipi vengono fermate regolarmente alla ricerca di software di VPN che ci consentono di accedere ai social media stranieri, la presenza di Twitter, la presenza di Instagram e la presenza di Telegram. Pare che un gruppo di persone si stesse organizzando su Telegram e che in qualche modo, in questo modo qui, abbiano sgamato e di conseguenza raggiunto svariate persone che erano coinvolte più attivamente. Considerando che Telegram ha tutta la storia sui telefoni, è chiaramente non una bella idea perché in questo modo un sacco di nomi sono stati in qualche modo rilasciati. Al momento non sta succedendo niente se non a livello attivo, se non questa fortissima repressione che sta girando, a quanto pare molte persone sono state coinvolte e ci sono state situazioni simili in altre città. E ci sono state soprattutto situazioni di insorgenza o di vocali, di critica aperta anche nelle università. Sono girati alcuni video, io non ho avuto esperienza diretta a riguardo, però so che nella mia università, che credo non abbia partecipato in nessun modo, il giorno dopo in cui, qualche ora dopo in cui Tsinghua University a Pechino stava vedendo una protesta in corso, era circondata da polizia, quindi indipendentemente da che la polizia sia andata da sola o che sia stata chiamata dalla dirigenza dell'università, sicuramente c'è un livello di attenzione, di tensione molto forte e girando per strada ci sono tantissimi capannelli di sbirri, molto di più di quelli che si vedono tutti i giorni, in posti tattici, non so, la sede della prima conferenza del Partito Comunista, piuttosto che la strada degli Uiguri, che è la popolazione musulmana dello Xinjiang, che ha un quartiere con dei ristoranti qui a Shanghai, e tutti i nomi delle vie che in qualche modo sono legati al territorio xinjianese, quindi vie che hanno il nome della città o vie che in qualche modo presentano negozi o attività che sono tipiche della comunità uigura. E niente, quindi direi per adesso panico e paura, sicuramente una grande onda di entusiasmo, non so sinceramente come chiamarla, comunque di novità. È incredibile vedere della gente cinese mobilitata per strada, questa è una cosa assolutamente nuova. Su cui si possono fare moltissime riflessioni e personalmente penso che non sia una cosa estemporanea o comunque bisognerà vedere. Però alla luce di questi 4 giorni da sabato a martedì la cosa più importante in questo momento è la pericolosità del livello repressivo con cui stanno andando a cercare le persone. Questo anche è un dato, questo anche è una cosa assolutamente unica della Cina nella sua drammaticità. E quindi sì, panico e paura per il momento. Ciao, speriamo di avere notizie migliori o più positive presto.